Zolt. Fulminati in azienda. Gna faccio più. Cosa sei, dottor? La vedo smorta. Gna faccio proprio. Più, Paco. C'ho sternia iadale, mi spacca in due. Oh, signor. Poi una dermatite che mi sto a spellare con un coccodrillo. Oh, mamma mia. E poi un'altra cosa che non te posso dire, che mi tocca stare in piedi tutto il santo giorno. Non la caverà mica mal de schiena, dottor. Ma quale schiena, Paco? Ma o sai che non capisci niente? Ma che te parlo a fare? Dottor, mi pareva che la se volessi sfogare un poco, non so, la ga una cera veramente brutta, un color de morto. Mamma mia, color de morto. Ah, Paco, io sono straccio. Faccio una vita grama, lavoro 18 ore al giorno. Sopra c'ho sul pezzo che mi sta gorfiato sul collo. Sotto non ci sta nessuno, a parte te, che sei stagista a vita e ci sarà pure un perché. Cosa devo fare, Paco? Come me devo riviare? Non so cosa dirgli, dottor, non so. E infatti non devi parlare, devi ascoltare. Ascolta, sorridi e sta zitto. Che mala soluzione me la trova solo. Com'è che la vuole, dottore? Zitto, com'è, ho detto la... zitto. Bravo, zitto. Non te muovi, non respira. Mi parli sempre. Accucci. Guarda, Centri, io ti capisco. Non sei l'unico caso in azienda con ernia iatale, capogiri, dermatiti e quell'altra cosa che non mi vuoi dire, ma... Ah, schedula, con tutto il rispetto, degli arti un me ne può fregare de meno. Sì, era solo per contestualizzare il tuo caso in una cornice aziendale di riferimento che ti permettesse di capire di... Ah, schedula, non mi fai incazzare. Capisci a me. So a pezzi, lavoro come un fagocero, non me reggo più. La domanda è, cosa devo fare? Con una risposta così, senza analizzare, contestualizzare... Scusa, ti occupi delle risorse umane, che c'entra analisi, che mi vuoi fare... Ma intendevo che secondo me... Sì, ma ripeto, cosa devo fare? Hai finito centrifuga? Bene, allora da esperta di risorse umane, ma anche da amica se posso permettermi, è evidente che il tuo caso, dati i sintomi di cui mi hai parlato, è un chiaro caso di acuta somatizzazione, ovvero... Scusa, non capisco bene sto fatto, somazzo... Insomma, cos'è sta il tuo corpo ti sta dando dei segnali chiari, precisi, e tu devi ascoltarli responsabilmente, devi fartene carico, devi... Ma scusa, schedo again, una lezione, non capisco centrifuga. Il concetto... sarò schietta. Sì, e allora dimmelo. Tu non stai bene. Ma va? L'avevo capito, sto bene, Bert. Allora, viso pallido, tutto bene a parte questa faccia color tristezza che ti porti dietro? Cosa volevi dirmi di così importante da dover fissare un appuntamento con me? Il tuo capo, tra l'altro, la mia porta è sempre aperta. Ecco, appunto, Marco, a dire verità, te volevo parlare di un fatto mio, personale, una cosa che mi turba. Carissimo centrifuga, son qua, tutto orecchie, il tuo capo ti ascolta. Ecco, e che poi ho visto schedula, no? Ecco, te vorrei parlare di lei. No, ma no, non ho capito, mi devi parlare di te o mi devi parlare di schedula? Allora? Ecco, allora, schedula, mi fa preoccupare, ma lo sai che sono andato per parlarle di un problema di salute mio, no? Ma tu, perché stai male ancora? Sto male, sto sempre male, le solite cose, l'ernia. Non si capisce perché ne devi parlare, comunque arriva al sodo. Ecco, Marco, allora, ci ho detto che c'ho la dermatite e lei mi ha detto di andare allo psicologo. Mi ha detto che se te va via la pelle è perché c'hai mal di testa, Marco, te ma veramente? Ma schedula? Non ci potevo credere, Marco, e se c'avevo mal di denti cosa mi diceva? Il caso è grave, ascolta a me, che se fa? Allora, che se fa non lo so, caro il mio centrifugo, mi fa piacere che ti preoccupi per lei, però sai come sono fatti questi delle risorse umane? Sono strani, pensano... Ho capito, però qualcosa bisogna fare. Centri, tempo scaduto, la mia porta è aperta ma poi si chiude, il cronometro ha detto stop, vai a lavorare. Ho capito, però... No, hai capito, vai a lavorare che ti fa bene, perché come dicevano gli antichi, ora lavora. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.